mio padrone, io dir volevo, che la cosa, ad aggiunto. Mia signora, io non credevo, ma lasciatemi parlar, lasciatemi parlar. La nipote sappia lei, il contino non vorrei, senta un poco in cortesia, io dirò, nipote mia, questa è cosa da crepar, questa è cosa da crepar. Mio padrone, io dir volevo, che la cosa adagio un poco, mia signora, io non credevo, adagio un poco, la nipote sappia lei, il contino non vorrei, mio padrone, mia signora, ma lasciatemi parlar, la nipote sappia lei, il contino non vorrei, sento un poco in cortesia, io dirò, nipote mia, questa è cosa da crepar, questa è cosa da crepar. Mio padrone, adagio un poco, mia signora, adagio un poco, la nipote, il contino, sappia lei, non vorrei, questa è cosa da crepar, Ciao,